24 mattino di Alessandro Milan. 7:34 minuti, parto con un'ora di ritardo, sono le 7:34 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, 24 mattino, il sondaggio subito, parliamo del caso del sottosegretario Cosentino, accusato di essere uomo vicino ai casalesi, quelli di Gomorra di Saviano. Si deve dimettere? Ve lo chiediamo nel sondaggio, votate radio24.it o sole24.com, molti stanno già votando, per ora si deve dimettere, dite di sì all'84%. Oppure pensate che la magistratura non può decidere con un'inchiesta se uno si debba dimettere o no, prima bisogna accertare i fatti. Riflettete anche su questo, ne parleremo alle 8:30, ora i giornali. Prosciutto di Parma, non è crudo, è di Parma. Vi presenta... In primo piano. Ed è proprio la giustizia sul doppio fronte, l'incontro Berlusconi-Fini e la vicenda Cosentino che occupa le prime pagine dei giornali. Si va dai titoli più soft, accordo sul processo breve, il Corriere della Sera, processi veloci, via libera da Fini per Repubblica, compromesso nel PDL sulla Stampa, intesa sul processo breve al Messaggero. A titoli un po' più forti, il giornale Fini vuole affossare Berlusconi, il cavaliere furibondo. Ma li vedremo tra poco. Andiamo a vedere come i giornali trattano questa vicenda, vale a dire il faccia a faccia Berlusconi-Fini. Vedendo i resoconti, retroscena, cominciando da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pare che non sia andata così bene come nelle dichiarazioni ufficiali. Il premier evoca la slealtà, ma Letta lo convince, non ci sono altre soluzioni. Questo è il titolo del retroscena di Verderami. Era un vertice talmente delicato che Gianni Letta ha dovuto addirittura prepararlo. Lunedì il braccio destro del Cavaliere si è recato in gran segreto a Montecitorio per parlare col Presidente della Camera. Sempre lui è dovuto intervenire ieri nel passaggio più infuocato del colloquio tra Berlusconi e Fini, quando il Premier, infuriato per il veto sulla prescrizione breve, è arrivato a incolpare l'alleato di mancanza di lealtà. Questo è il Corriere della Sera, ma ovunque, addirittura Repubblica mette quello che sarebbe il virgolettato dell'incontro di ieri. Francesco Belli e Anna Milella dicono, eccolo qui il virgolettato. Tra Berlusconi e Fini. Berlusconi, negli ultimi mesi, a Fini, il tuo comportamento è stato quantomeno disdicevole e non hai mancato occasione di prendere le distanze da me. Fini, Silvio, calmati, tu sbagli, ho solo difeso principi di legalità in cui credo da sempre. E poi Berlusconi, solo la prescrizione mi garantisce di chiudere una volta per tutti il caso Mills. Se non mi appoggi, lo interpreto come un tradimento. È il momento clou dell'incontro. Berlusconi si infuria e Fini a questo punto cala il suo asso. E no, caro Silvio, non lo puoi dire perché la perplessità più forti sono arrivate dal Quirinale. Interviene Letta per evitare una clamorosa rottura. Certo, c'è da dire che sono tutte ricostruzioni, vai a sapere se veramente sono queste le parole usate, però c'è da dire che anche il giornale, voglio andare proprio lì, e come sapete il giornale va vicino, molto vicino a Berlusconi, Fini vuole affossare Berlusconi. Nel titolo, nell'editoriale del vice direttore Alessandro Sallusti, si dice così, è andata bene? Non è così. Sul piano personale è andata male, malissimo secondo alcuni. Il presidente della Camera è lontano anni luce dal presidente del Consiglio. Preferisce tenersi stretto il buon rapporto con Napolitano. Se questa legge passasse, certo, potrebbe trovarsi Berlusconi fuori dai principali processi in corso. Ma tutto resta di là da venire. Tra i due scende il gelo, scrive Sallusti. Dopo il vertice di ieri, l'ira di Berlusconi, che dice Fini non ha alcuna intenzione di aiutare il Premier a risolvere i problemi. Sulla giustizia ha dovuto fare una concessione, ma poi se n'è lavato le mani, dice Alessandro Sallusti, che insiste. Ora spieghi cosa vuole fare Fini. E vado su un altro giornale orientato a centrodestra, Libero. L'urlo del Cavaliere prima dell'accordo. Nel corso del vertice Silvio ha gridato più volte contro Gianfranco. Il risultato soddisfa entrambi, ma il Premier non ne può più di andare a Montecitorio a elemosinare l'appoggio dell'alleato. Insomma, come vedete, pare che, a parte quella frase di Berlusconi, è andato tutto bene. evidentemente benissimo non è andato. Per Antonio Polito, Fini ha salvato la faccia, cui tiene molto. Berlusconi spera di aver salvato la ghirba, cui tiene anche più della faccia. Si è concluso con un compromesso l'incontro al vertice tra le due anime del PDL, ma anche Polito dice: a guardare il body language, il linguaggio del corpo, è stato Fini a correre davanti alle telecamere di Sky. Berlusconi non ha ancora parlato, i suoi fedelissimi in privato schiumano rabbia. Già, ma che è successo? Allora, in questo incontro si è deciso che la via per riformare la giustizia è quella del processo breve, accorciare i tempi dei processi, vale a dire, per chi è incensurato, se i tre procedimenti, se i tre gradi di giudizio durano più di 6 anni, va tutto a carte 48, tanto che il Fatto Quotidiano mette sotto il titolo La Cosca, si parla di Cosentino, un commento di Bruno Tinti, magistrato, che dice: ci prendono per scemi? Questo è il titolo. Così avremo il processo breve per gli incensurati, scrive Tinti. Per gli altri, quelli già condannati, mettiamoci pure tutto il tempo che ci vuole. Entro 6 anni per l'incensurato deve arrivare la sentenza definitiva, colpevole o innocente. Se non arriva, quale sarà la formula? Prescrizione? Fuori tempo massimo? Squalificato il giudice? Come al solito, pur di cavare Berlusconi dai guai, un sacco di delinquenti resteranno impuniti. E Tinti dice: fino ad ora i processi che si facevano erano prima quelli con i detenuti. Sei dentro, ti processo subito, perché magari sei innocente, anzi sei senz'altro innocente fino alla sentenza definitiva, e allora non devi stare in prigione un minuto di più. Adesso invece i processi che si debbono fare per primi sono quelli per gli incensurati, perché più di 6 anni non potranno durare, se non mi sbrigo non li finisco in tempo. Solo che gli incensurati in genere non stanno in galera in attesa del processo, sono a piede libero proprio perché sono incensurati. E tuttavia prima si processeranno gli incensurati, perché poi non si può più, e dopo i detenuti, che c'è tempo, intanto se ne stanno in galera magari da innocenti. Ed è qui il commento finale: ma proprio per scemi ci prendono? Insomma, il Sole 24 Ore mette quelli che sono, quello che è lo Stato, stando queste indiscrezioni, poi bisognerà vedere ovviamente il disegno di legge che forse approderà già oggi al Senato, cosa succederà. Estinti Mediaset e Mills per quel che riguarda i processi di Berlusconi ovviamente, ma non Mediatrade RTI. E Donatella Stasio che dice: bisogna vedere insomma come verrà ora proposta la legge, ma certo i due processi al Premier sono ancora in primo grado, in base quindi alla norma transitoria sottoposti alla nuova regola dei 2 anni di tempo massimo per arrivare a sentenza se l'imputato è incensurato, il reato per cui si procede è punito fino a 10 anni. Dunque, sono trascorsi già 2 anni, il giudice sarà costretto a prosciogliere l'imputato perché il reato è estinto nel caso processi in Mediaset diritti TV. Il decreto che dispone il giudizio è il 7 luglio e quindi è già tutto scaduto, stante questa novità, il luglio 2009. Sarebbe già cadavere, scrive Donatella Stasio, anche il processo Mills. Il decreto che dispone il giudizio è del 30 ottobre 2006 e dunque si è estinto a ottobre 2009, tenuto conto della sospensione dovuta al lodo Alfano. Questa è la vicenda giudiziarie, già si fanno i calcoli. L'altra vicenda che tiene banco decisamente è quella che vede protagonista il sottosegretario Cosentino, sottosegretario all'economia, uomo forte del PDL in campagna, accusato di essere uomo dei casalesi. Stop da Fini sulla candidatura, ma il Premier tieni duro. C'è anche qui una sorta di doppio atteggiamento, cioè Gianfranco Fini ha detto a questo punto: Cosentino, la sua candidatura in campagna alle regionali della prossima primavera non è più nel novero delle cose possibili, leggo dal Corriere della Sera. La replica: secondo l'ADN Cronos, un'agenzia di stampa, Berlusconi ha telefonato a Cosentino e gli ha detto: tieni duro e vai avanti. E il sottosegretario sul Corriere, in un qualche dichiarazione estrapolata qua e là: non rinuncio a niente, contro di me soltanto millantatori, chissà in quanti si stanno divertendo alle mie spalle, si tratta di accuse che trovo ridicole, già smentite documentalmente, delle quali mi ero già difeso, esprimo rammarico per non essere mai stato interrogato. E su tutti i giornali si leggono stralci delle carte, l'ordinanza e le accuse, il pentito e i nomi dei politici. E perché dei politici? Perché ce ne sono più di uno. secondo il Corriere della Sera, ma lo trovate ovunque, Repubblica, La Stampa, su tutti i giornali, sostanzialmente è accusato di essere Nicola Cosentino, uomo che appoggiava i casalesi e per questo riceveva voti, soprattutto per la creatura Eco 4, un consorzio di smaltimento rifiuti in Campania. Che cosa dice uno dei pentiti che lo accusa, Gaetano Vassallo? Dice: posso dire che la società Eco 4 era controllata dall'onorevole Cosentino, ma anche dall'onorevole Mario Landolfi, che è il vice coordinatore del PDL in Campania. E poi ricordo che si fecero i nomi di alcuni politici nazionali, in particolare Raffaele Bidognetti, riferì che gli onorevoli Italo Bocchino, Nicola Cosentino, Gennaro Coronella, che è un senatore del PDL, e Landolfi facevano parte del nostro tessuto camorristico. Dunque, i nomi dei politici citati sono questi, non c'è solo quello di Cosentino nelle carte e nelle parole dei pentiti. Che succede? Che da oggi la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dovrà esaminare il caso, perché la richiesta di arresto è arrivata al Parlamento, dove Cosentino è anche parlamentare, e dovrà decidere se dare il via libera all'arresto. Lo decide la Camera. A Montecitorio intoccabilità garantita. Scrive Filippo Ceccarelli su Repubblica: il verdetto è già scolpito nella storia. Solo 4 volte su 64 nella vita repubblicana è stato dato il via libera alle manette dopo che sostanzialmente c'è stata la richiesta d'arresto. Il primo dei 4 sfortunati onorevoli, scrive Ceccarelli, fu Francesco Moranino del PC. La richiesta si riferiva alla fucilazione ordinata come capo partigiano di 7 persone, ma al dunque Moranino se la svignò in Cecoslovacchia. Poi toccò a Sandro Saccucci, MSI, anch'egli accusato di omicidio, e lui fuggì in Sud America. Poi toccò a Tony Negri, che andò in Francia, per poi ritornare peraltro in Italia in prigione. L'ultimo caso, Massimo Abbatangelo. Reati connessi alla detenzione illegale di armi e esplosivo, al loro uso, anche questi un po' di carcere se lo fece. Da allora, era la legislatura 1983-87, da 22 anni sostanzialmente, la Camera ha sempre negato qualsiasi arresto. In primo piano. Ieri era stato libero a dire: attenzione, dal caso Cosentino si partirà, ma non è l'unico caso di manette in arrivo, tanto che Belpietro disse: vedo già l'aria di Tangentopoli. Beh, basta prendere in mano oggi Libero per vedere quella che è sicuramente, se confermata, la notizia del giorno. Vendola prende la scossa, il presidente della regione Puglia. La profezia di D'Alema colpisce ancora. Nel mirino dell'inchiesta sulla sanità pugliese c'è il governatore e il senatore Tedesco, che è l'ex assessore in Puglia. È Roberta Catania in prima pagina che rivela o rivelerebbe: Nicola Vendola è nel mirino dei carabinieri. Per lui e altri 10 tra politici e manager, gli investigatori ipotizzano il reato di tentata concussione nell'ambito dell'inchiesta di Bari sulla sanità in Puglia. Tra l'altro c'è anche stralci del documento del nucleo investigativo di Bari, dell'indagine della dottoressa del PM Di Geronimo. Denunciato per tentata concussione 11 persone, tra cui Nichi Vendola. Ovviamente questa, si dice, è la fase del deferimento, è il passaggio obbligato per arrivare all'iscrizione nel registro degli indagati, insomma, che verrebbe quindi anticipata oggi da Libero, l'iscrizione al registro degli indagati di Nicola Vendola, presidente della regione Puglia. Lasciamo la politica con i tanti annessi e questioni alla giustizia. Veniamo all'economia, prendo in mano il Sole 24 Ore, dalla quale oggi ci sarebbero tantissime segnalazioni molto interessanti da fare, vediamo di farne alcune. Innanzitutto l'apertura a conti fiscali ridotti. E che cosa sta succedendo? Il governo sta studiando una nuova riduzione degli acconti IRES e IRAP di novembre, una misura che verrebbe accompagnata dal rinvio alla prossima primavera dell'approvazione degli studi di settore da utilizzare con unico 2010, una sospensione dei pagamenti che saranno recuperati l'anno 21 e che vale circa 2 miliardi per società, lavoratori autonomi e professionisti. Questo poi all'interno Luigi Lazzi Gazzini e Marco Mobili spiegano com'è questa riduzione bis di 2-3 punti dei versamenti IRES e IRAP allo studio. Così come vi segnalo sempre dal Sole 24 Ore, innanzitutto un manuale che esce oggi, è in vendita a 9,90 euro oltre il quotidiano. È un manuale di navigazione per piccole imprese, per le PMI, un manuale anticrisi. Tutto un Istanbul per capire come ottenere il credito, come aggirare la burocrazia, come battere la concorrenza sleale. All'interno anche del Sole, Aldo Bonomi presenta questo Istanbul che trovate oggi allegato al Sole 24 Ore in edicola a 9,90 euro, lo ripeto, oltre al prezzo del quotidiano. Riguardante sempre le PMI, segnalo sulla questione della ripresa l'editoriale di Marco Fortis, molto interessante, molto ben articolato, La formica Italia nel suo piccolo va lontano. Marco Fortis oggi ha preso in esame 8 indicatori economici: gli investimenti in costruzioni, il prodotto interno lordo, i consumi privati, le esportazioni, gli investimenti in macchinari, la spesa pubblica, il debito pubblico, la disoccupazione, per capire, insomma, attraverso questi indicatori dell'economia a che punto siamo per quel che riguarda la ripresa, e ve lo consiglio. Non è una vicenda economica, ma è legata al destino di un'azienda, e lo trovate ben analizzato in tutti i giornali, addirittura alcuni ci aprono in prima pagina, quello che è successo ieri all'azienda Eutelia, dove sostanzialmente c'è un'occupazione da parte degli operai che dicono rischiamo il posto di lavoro. È successo un blitz, alcuni vigilantes con addosso giubbotti da buttafuori, guidati dall'ex amministratore delegato dell'azienda, hanno fatto irruzione nella fabbrica dell'Eutelia a Roma per cercare di liberarla dall'occupazione dei lavoratori. E per i sindacati è l'intervento di una squadraccia fascista, tanto che l'Unità ci apre in prima pagina e mette la foto abbastanza inquietante, devo dire, almeno in questa foto, dell'ex amministratore delegato che ha guidato, diciamo, questo definito raid. La foto è di questo amministratore con un cappellino con sopra un teschio e tiene tra i denti un pugnale. Il titolare. Questo è il titolo: squadristi in fabbrica. C'è un'intervista anche a Guglielmo Epifani della CGIL che dice: un fatto gravissimo, un clima sudamericano, vedo in questa azione violenta una minaccia alle regole democratiche della nostra vita sociale. Poi c'è tutto un profilo proprio di chi è Landi, questo Samuele Landi, appassionato, diciamo, è l'amministratore delegato che ha guidato questo definito raid, appassionato di paracadutismo, kickboxing, frequentatore della Parigi-Dakar, insomma una vicenda che è trattata anche da Libero. Sgombera con la forza la ditta occupata, con 15 vigilantes l'ex amministratore delegato Landi irrompe all'Eutelia dove dormivano alcuni dipendenti e la nuova proprietà dice ricevute minacce, anche se il commento in questo caso è diverso da quelli che trovate sull'Unità, ma anche sul manifesto in apertura. È sostanzialmente il padrone fa il ladro in casa sua e quelli che occupano chiamano la polizia. Il commento è di Luigi Sant'Ambrogio. Trovate moltissimo, anche se non c'è spazio, sulla vicenda Cucchi, ancora morto in carcere. Vi segnalo solo Carlo Bonini, prima pagina di Repubblica, dice, o meglio all'interno di Repubblica, ho visto dallo spioncino gli agenti che lo picchiavano. È un clandestino, S-Y, queste le lettere puntate, che ha detto ho visto come Stefano Cucchi è stato colpito da alcuni agenti. La lezione che gli hanno dato poco prima di trascinarlo in cella chiudendosi la porta alle spalle. Mi fermo qui, votate per il sondaggio su radio24.it, sole24ore.com. il sottosegretario Cosentino, accusato di essere uomo dei casalesi, deve dimettersi oppure no? Soldi e dintorni. Eccoci qua, attenzione perché c'è un dramma in corso. No, lo Deborah tengo. Rosciani sta per starnutire. Lo sto tenendo sotto controllo, tutti fermi. La prima che riesce a controllare gli starnuti. Guarda, non cambiare discorso perché tante le domande che devo farti te le faccio lo stesso. Oddio. Allora, senti un po', come stai messo a capacità di fare torte e marmellate? Ce n'è una terza? Un po' di carpenteria di base, assistenza ai tubi gocciolanti. Vabbè. Nemmeno tutto quello. Un disastro. Guarda, se fossimo in una società del baratto non avresti nessun valore economico, non saresti nemmeno sul mercato, sarebbe proprio dura per te. Ma l'ho sempre detto che valgo nulla. Però potresti scambiare la tua infinita simpatia. Sì, vabbè. Allora, guarda, perché ho fatto tutto questo preambolo originale, originalissimo, perché oggi parliamo proprio di baratto e non del baratto in generale, ma di un baratto molto interessante che viene promosso, anzi verrà promosso la prossima settimana dai Bed and Breakfast italiani registrati a bedandbreakfast.it. È un'iniziativa, appunto lo sottolineavo, molto originale e probabilmente anche molto utile dato il critico momento economico che stiamo attraversando. E allora sentiamo un po' di che cosa si tratta con il titolare del portale più rappresentativo di questo settore, Giambattista Scivoletto. Buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno, grazie. Allora, la settimana del baratto si svolgerà la prossima settimana, per l'appunto, dal 16 al 22 novembre. In cosa consiste questa iniziativa? Ma è una settimana organizzata in un periodo di bassissima stagione turistica, in cui, come avete ben detto, migliaia di bed and breakfast italiani offriranno il soggiorno gratuito, o meglio, barattandolo in cambio di beni o servizi. Per noi vogliamo che sia un'occasione per visitare l'Italia, dare la possibilità, soprattutto in questo periodo di crisi economica, anche a chi non ha potuto farlo durante le ferie d'agosto o non potrà farlo per le prossime vacanze di Natale, di visitare anche città vicino la propria o nella propria regione, o di provare il bed and breakfast per la prima volta spendendo poco o nulla. Ecco, allora ci spieghi un po' come funziona l'organizzazione, perché naturalmente non sarà assolutamente selvaggia, come dire, bisognerà anche individuare quei bed and breakfast che hanno bisogno della nostra professionalità. Certo, io ad esempio non so fare torte, Scivoletto, ma magari ammettendo che qualcuno interessi che io sappia fare qualcos'altro, come posso fare per capire qual è il bed and breakfast che fa per me, naturalmente scegliendo anche la località che mi piace, che mi interessa? Certo, noi sul sito settimanadelbaratto.it abbiamo indicato chiaramente qual è la lista dei desideri di ogni bed and breakfast, quindi si può scegliere nella località in cui si preferisce viaggiare il bed and breakfast che richiede i beni o i servizi che noi siamo disposti a barattare o ad offrire. Quindi, certo, abbiamo previsto questa possibilità. Voi mi diceva prima, appunto, avete, come dire, individuato questo modo per alimentare un po' i flussi turistici in questo periodo, una soluzione anche per tempi di crisi e di difficoltà economiche. Non è la prima iniziativa che fate in questo senso, non esattamente la settimana del baratto, per esempio in marzo organizzate anche la possibilità di soggiornare nei bed and breakfast associati praticamente alla vostra organizzazione a metà prezzo. Sì. E il B&B Day, quest'anno nel 2010 sarà il quarto evento che organizziamo. Il primo weekend del mese di marzo si può viaggiare in bed and breakfast spendendo la metà. Se prenoti due giorni, uno lo paghi e uno è gratuito. Ecco, però voi per esempio questa iniziativa qui l'avete fatta quest'anno per il terzo anno, il 2010 appunto sarà la quarta edizione, diciamo che non è stata esattamente, come dire, collegata anche alla fase di crisi economica. Il tema è aggredire la difficoltà nel momento in cui c'è la bassa stagione, sì, sostanzialmente. Sì, ci sono dei periodi fisiologici in cui si viaggia meno, è anche, credo, il periodo più bello per molti per viaggiare al di fuori dei flussi turistici. I nostri affiliati non si preoccupano di guadagnare meno in quel periodo e offrono, lo facciamo anche per autopromuoverci, fondamentalmente vogliamo far provare il bed and breakfast a tutti coloro che non l'hanno mai provato. E infatti. Il spendere la metà o spendere nulla è un'occasione a cui molti piace. Ecco, promuovere l'attività del bed and breakfast è una struttura ricettiva di successo nel nostro paese, Scivoletto, o è ancora, sì, come dire, come qual è il messaggio che passa mediamente, che sia la formula adatta soprattutto al mondo giovanile che vuole spendere poco, ma anche una famiglia di quattro persone che invece ha bisogno di tutti i comfort? No, ma il target del bed and breakfast è molto vario, e ci sono professionisti, imprenditori che vanno in bed and breakfast. Ogni bed and breakfast è diverso e ce n'è per tutti i gusti, e ci sono i bed and breakfast a low cost, e molti intendono il bed and breakfast low cost e lo trovano, ma ci sono bed and breakfast che sono assolutamente hotel 5 stelle a prezzi non da hotel 5 stelle. Certo, e ritorniamo alla settimana del baratto. Allora, queste iniziative in realtà si ispira ad un'esperienza già concreta di un vostro associato, sì, mi pare in Sardegna, no? Non era un nostro associato quando noi abbiamo scritto di lui, ecco. L'anno scorso abbiamo realizzato un articolo su questo primo bed and breakfast e baratte, un bed and breakfast al cubo, diciamo, che è Villa Colle di Alfredo Meschi a Bosa. Proprio come il nome della casa di Pippi Calzelunghe. Sì, la casa, sì, di Pippi Calzelunghe. Allora, loro sono, ecco, quasi degli estremisti del baratto, nel senso che per loro il baratto è solo un modo per non imbarazzare l'avventore, perché loro offrono ospitalità gratuita assolutamente, quindi, e non si preoccupano, ecco, come altri, di qual è l'oggetto del baratto, ma loro sono proprio amanti dell'ospitalità a 360 gradi, del consumo critico, dell'economia del dono, della decrescita felice e di sistemi monetari alternativi. Benissimo. Eccetera. E voi l'avete applicata praticamente un po' a tutte invece le strutture che sono aggregate alla vostra associazione. Quante adesioni avete già avuto? È possibile farlo di già? No, scivoletto? No, noi i B&B che hanno aderito sono poco meno di 1000 distribuiti in tutta Italia, però il numero di richieste che abbiamo ottenuto ad oggi sono tantissime, sono migliaia. Che cosa portano? Qual è la cosa più originale che è stato proposto di barattare? Ha già dato un'occhiata? Sì, io ho chiesto ai che ha aderito, ecco, quali erano i beni o oggetti o i servizi offerti, e devo dire che moltissimi sono richieste di scambio di ospitalità fra B&B. Allora, ci sono dei bed and breakfast che non hanno aderito, che chiedono di scambiare l'alloggio in diversi periodi dell'anno. Poi andiamo marmellate e conserve di tutti i tipi, birra fatta in casa, liquori artigianali, vino e olio insomma, etichetta, mettiamo, diciamo, in moto l'economia in ogni modo che ci risulta possibile. Scivoletto, io la ringrazio per essere Grazie stato con noi. Per tutte le informazioni andate sul sito o di bedandbreakfast.it o naturalmente anche della settimana del baratto. Grazie molto, buon lavoro, Grazie. In bocca al lupo, poi la chiameremo magari per farci raccontare anche com'è andata. Volentieri. Alessandro, dove andiamo con le nostre marmellate? Stiamo qua, Salvadanaio. Salvadanaio, oggi parliamo ancora di appassionati di investimenti in borsa che lo fanno da soli come trader professionisti, il trading online, e vediamo un po' questo fenomeno come sta andando in Italia. Il nostro sondaggio di oggi è sul sottosegretario Cosentino. Deve dimettersi oppure no questo politico che è accusato, ne è richiesto l'arresto, di essere vicino ai casalesi, la mafia di Gomorra, la mafia descritta da Roberto Saviano. Che poi vuol dire anche un politico accusato di reati così gravi. Deve dimettersi secondo voi oppure bisogna attendere il corso degli eventi della magistratura? Votate su radio24.it o sole24ore.com se volete chiamarci per intervenire. Accordo nella maggioranza per riformare la giustizia dopo il faccia a faccia tra Berlusconi e Fini. Arriverà un disegno di legge per ridurre i tempi dei processi per gli incensurati. 6 anni per tenere i 3 gradi di giudizio. No all'ipotesi di ridurre i tempi di prescrizione dei reati. Il sottosegretario all'economia Cosentino contribuiva sin dagli anni 90 a rafforzare vertici attività del gruppo camorrista dei Casalesi, e quanto si legge nelle carte della Procura di Napoli che ha chiesto l'arresto per il coordinatore del PDL in campagna. Ne parleremo tra pochissimo. E infine, scuole chiuse oggi a Casamicciola, Ischia e verifiche su tutta l'isola. Lo ha detto il sindaco Vincenzo D'Ambrosio dopo che ieri una frana ha causato la morte di una 15enne e ha ferito altre 20 persone. E dunque, come detto, come anticipato, il nostro sondaggio di oggi si riferisce alla vicenda che ha coinvolto, coinvolge il sottosegretario all'economia Cosentino. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Bianco o nero di oggi, vi chiediamo la domanda se secondo voi il sottosegretario Cosentino si debba dimettere oppure no. Il sottosegretario Cosentino è accusato di cose molto gravi. E leggendo le carte oggi pubblicate da tutti i giornali, la Procura di Napoli ha chiesto l'arresto sul quale si pronuncerà il Parlamento, visto che è parlamentare, e sostanzialmente è accusato dagli anni 90 di essere uomo votato dai casalesi, lui è di Casal di Principe, in cambio ovviamente di favori. Lo tirano in ballo vari pentiti, di Camorra. Lui tra l'altro oggi sul Corriere della Sera qualche frase: sono millantatori, sono accuse vecchie, si stanno divertendo alle mie spalle, io non rinuncio a niente. La domanda si può anche generalizzare, allargare: un politico accusato di cose così gravi, secondo voi si deve dimettere oppure bisogna aspettare il corso della magistratura? Voglio salutare i miei ospiti, saluto l'onorevole Luca Orlando, buongiorno, dell'Italia dei Valori. Buongiorno. Così come saluto Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà, buongiorno Stracquadagno. Buongiorno a lei. Senta, partirei da lei, so che lei conosce Cosentino, ha già detto ieri io metterei la mano sul fuoco, che dobbiamo pensare? Non si deve dimettere secondo lei? Scusi, perché dovrebbe dimettersi quando sei pentiti lo accusano senza alcun riscontro? Chiedo. Chiedo io. Se io trovo sei persone che accusano lei di qualcosa che lei non ha mai commesso, e magari uno di questi ha anche qualche motivo di vendetta, perché siccome avendo smantellato il grande affare camorristico dei rifiuti con la costruzione del termovalorizzatore di Cerra, il governo Berlusconi ha fatto fuori quel mondo che girava lì intorno, perché io dovrei dimettermi? Quindi pentiti, come dire... Lei conosce il caso Tortola, lo ricorda? Cioè, beh, certo, come... Ecco, lei si ricorda come è andato a finire? Sì. Ma certo, lei conosce il caso Andreotti, lo ricorda? Bene, allora perché tutti questi signori avrebbero dovuto dimettersi? Insomma, però le chiedo, vuol dire sono pentiti, manovrati anche, o che fanno dichiarazioni? Non ho detto che sono manovrati, ho detto che sono pentiti, la loro parola vale semplicemente il salvacondotto giudiziario che cercano di ottenere. Perché se non si porta alcun riscontro delle proprie affermazioni, siete calunniatori. Orlando vuole replicare su questo, si deve dimettere, l'Italia dei Valori ha detto di sì. Si deve Noi riteniamo dimettere. Che il sottosegretario Cosentino dovrebbe dimettersi. Se fosse un imprenditore siciliano in Sicilia, la Confindustria lo espellerebbe dall'associazione degli industriali, perché emerge un quadro di rapporti, di relazioni con l'ambiente camorristico, con le famiglie camorristiche Bidognetti e Schiavone, che i magistrati verificheranno se costituiscono fatto di reato, ma i fatti intanto ci sono, cioè c'è un rapporto che dura da oltre 13 anni tra un esponente politico e le cosche camoriste di Casal di Principe. Però i fatti, Stracquadagno dice, sono parole, sì, di pentiti. Mi ricorda che negli anni 60, in piena Prima Repubblica, l'allora sindaco Ciancimino, che non era stato ancora condannato da nessuno, fu costretto a dimettersi perché il capo della polizia disse che era l'esponente dei corleonesi. Ecco, io credo che Cosentino sia un poco per i casalesi quello che Ciancimino era per i corleonesi, a prescindere dalle risultanze penali che verranno evidentemente però, alla fine del processo. Perché lei dice allora, questa nella prima Perché dice a prescindere, voglio dire? Cioè, nelle 351 pagine emergono una serie di fatti che denotano rapporti continui di contiguità, di cointeresse anche finanziario, economico e imprenditoriale del Cosentino con i camorristi di Casal di Principe. Questo tipo di relazione, di rapporti, un politico che riveste incarichi di governo non può andare con un mafioso a prendersi una pizza, neanche se parla di Mozart o di Bach, meno che mai può fare affari con un mafioso, perché è sottoposto ad alcuni criteri etici, che sono quelli peraltro che vengono invocati dallo stesso Presidente della Camera, Gianfranco Fini, che reputa inopportuna la proposizione di personaggi come Cosentino, che fa riferimento non a sentenze penali passate in giudicato, ma a quel principio etico di disciplina ed onore che è previsto dalla Costituzione. L'articolo 54, secondo comma della Costituzione, dice che mentre i normali cittadini devono rispettare la Costituzione e la legge, coloro che rivestono pubbliche funzioni hanno un supplemento di obbligo, è quello di comportarsi con disciplina e con onore, quindi a prescindere dal profilo penale. Voglio ricordare, il governatore della Bundesbank tedesca si dimise perché accettò in regalo da un'altra banca tedesca il pagamento di tre notti d'albergo a Berlino. Però questo non era né reato né peccato. No, ma questo è il tema interessante. Lei dice a prescindere dalla questione penale che si accerterà. Allora, prima di tornare a Stracquadagno, visto che lei ha citato Fini, in pochi secondi, Fini si è espresso così ieri a Sky in maniera perentoria, 4 secondi sulla possibile candidatura di Cosentino, perché Cosentino era probabilmente il primo candidato del Popolo della Libertà alle prossime regionali in Campania. E ora? Francamente non ne ho parlato col presidente Berlusconi, ma credo che non sia più nel novero delle cose possibili. Non credo sia più nel novero delle cose possibili. Stracquadano risponda a Leoluca Orlando, che dice poi i fatti penali, ma i fatti scritti in quelle 350 pagine parlano chiaro. Mi perdoni, prima di rispondere all'onorevole Luca Orlando, le cui parole non valgono nulla, perché lui avrebbe dovuto già da tempo ritirarsi dalla vita pubblica per un semplice motivo. Con le stesse parole che sta usando oggi, accusò Giovanni Falcone di tenere nascoste nelle carte, di tenere nascoste nei cassetti le carte che accusavano la collusione tra mafia e politica. Quindi Orlando fu uno di quelli che delegittimò Giovanni Falcone, e qualche responsabilità nell'isolamento che Falcone ha avuto nella magistratura e nella successiva messa nel mirino da parte della mafia la dovrebbe sentire, qualche responsabilità morale. Avrebbe dovuto solo per questo ritirarsi dalla vita pubblica. Io per cui non do alcuna credibilità alle tesi dell'onorevole Luca Orlando, quello per cui il sospetto era l'anticamera della verità. Cioè, l'onorevole Luca Orlando fa esattamente le stesse cose che fece quando dice nei confronti di Cosentino le stesse cose che disse nei confronti di Giovanni Falcone, e quindi la sua credibilità è zero per quanto mi riguarda. Quanto poi alle 350 pagine, le ricordo che nel processo di Andreotti ci sono state 1 milione di pagine, quindi il numero delle pagine non vale nulla rispetto a quelle che sono le consistenze della Lei però se cita il caso Andreotti... Allora, io le dico, mi perdoni, l'ordinanza, io vorrei citare alcuni fatti, perché è inutile che facciamo parole come ha fatto fino adesso l'onorevole Orlando, che sono parole di retorica. I fatti sono che la richiesta del pubblico ministero al GIP è del 28 giugno scorso, e allora se i fatti erano così chiari, come mai la richiesta d'arresto al Parlamento arriva solo oggi, nel momento in cui cioè Cosentino è il probabile candidato del Popolo della Libertà alla presidenza della regione Campania? Orologeria? Ma non lo so, io riscontro soltanto che chi lo accusa era qualcuno che stava dentro il business dei rifiuti e dice di esserne stato estromesso. E il business dei rifiuti, mi perdoni, chi lo gestiva? Forse l'onorevole Cosentino, che era all'opposizione, o forse lo gestiva il commissario straordinario dei rifiuti, sì, nominato dal governo, cioè il governatore Bassolino, che non compare mai in nessuna inchiesta della magistratura relativamente a quello che era il grande affare delle discariche in Campania. Lei che però mi ha citato il caso Andreotti, voglio dire, no, per correttezza non si parla di Andreotti, però lei sa che insomma nelle sentenze depositate poi c'è scritto che fino a un certo anno per il quale il reato era prescritto era stata accertata la vicinanza con esponenti della mafia, per il caso Andreotti, e questo per correttezza di informazione. Poi è stato invece assolto formula piena per il dopo quell'anno, ai giorni a venire. Però Leoluca Orlando vuole replicare, insomma, perché Stracquadagno ha detto parole anche pesanti su di lei, e prima di andare al traffico poi ci aggiungerà anche un magistrato che l'onorevole Stracquadagno farebbe bene a consultare il mio sito www.leolucaorlando.it e troverà lì spiegazione dei miei rapporti con Giovanni Falcone. E nonostante quello che dice l'onorevole Stracquadagno, ieri, oggi e domani io continuerò a chiedere che ci sia un'attenzione etica, perché la mia parte di politico è quello di denunciare le ipotesi di reato e comunque i comportamenti non conformi all'articolo 54 secondo comma della Costituzione da parte di chi ricopre pubbliche funzioni. Poi è compito della magistratura accertare se questi fatti costituiscono o non costituiscono reato, che ognuno faccia la propria parte. Detto questo, mi sembra veramente singolare che un personaggio che da un esponente della sua stessa coalizione, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, viene ritenuto non poter aspirare a ricoprire l'incarico di Presidente della Regione, possa invece mantenere l'incarico di membro del Governo nazionale. Mi sembra francamente una cosa inaccettabile. Io insisto, c'è questa condizione oggettiva per la quale il Cosentino dovrebbe dimettersi nella Prima Repubblica, torno a citare la deprecata Prima Repubblica, il sindaco Ciancimino fu costretto a dimettersi senza che fosse condannato, perché il capo della polizia disse che era opportuno che un uomo così forte. Lei fa questo, sì, il cellulare fa un po' le bizze, lei fa ancora questo paragone, cioè a dire che però Ciancimino poi è stato accertato, di Cosentino ci sarà forse un processo, vedremo. In ogni caso, io prima di dare il traffico voglio salutare il magistrato Raffaele Cantone che ci ascolta. Cantone, buongiorno. Magistrato, buongiorno. Attualmente alla Cassazione, ma una vita impegnata in passato proprio a stretto contatto con i casalesi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Bisogna dire che l'84% di voi per ora che vota sul sito radio24.it dice il sottosegretario Cosentino deve dimettersi. Allora, Raffaele Cantone, magistrato in Cassazione, ma una vita spesa in tante inchieste contro la camorra e i casalesi. Le chiedo innanzitutto, Cosentino ha detto sono accuse vecchie, da 10 anni ne parlano e non è mai avuto niente in passato. Ha anche detto un paio di giorni fa sul Riformista, vorrei sapere che ne pensa per esempio un magistrato come Cantone. Lei si è mai imbattuto Sul nome di Cosentino? Guardi, lei può capire che io non posso parlare di queste vicende. Fra l'altro c'è una norma dell'ordinamento giudiziario che mi vieta di parlare assolutamente di vicende che riguardano indagini alle quali ho partecipato. Allora, come legge però questa? Mi consenta, diciamo, 3 valutazioni preliminari velocissime. In primo luogo, il pool di magistrati che ha richiesto la misura cautelare e il pool di magistrati che si occupa da tempo delle indagini sui casalesi, dei quali ho avuto l'onore di far parte, è un pool di magistrati che ha ricevuto fino a pochi giorni fa grandi plausi dal Ministro della Giustizia o dal Ministro degli Interni per i risultati ottenuti, quindi credo sia opportuno quantomeno tenere conto questo fatto. Secondo elemento, il GIP Piccirillo è un magistrato che ha lavorato tantissimi anni a Santa Maria, è noto per essere oltre che particolarmente equilibrato anche particolarmente garantista, anche questo credo che è un elemento da prendere in considerazione. Poi c'è un terzo dato che non vorrei mettere in rilievo come dato cerchiobottista, ma per ragioni di obiettività. Io credo che sia importante a questo punto vedere la difesa di Cosentino, perché fino a questo momento il processo si è svolto soprattutto anche attraverso fughe di notizie sulla stampa, quindi sarà importante comprendere rispetto a vicende specifiche quali saranno le difese dell'onorevole Cosentino, che fino a questo punto pare non abbia avuto la possibilità di farlo. Sì, questo io nel merito non ho la possibilità di dire. Sì, sì, perché lui ha detto volevo essere sentito dai magistrati, non mi hanno mai convocato. Le chiedo, ma io non so se questo, anche questo lo può dire, ma oggi vengono citati anche nelle carte altri nomi, per esempio il nome di Italo Bocchino, il nome di Mario Landolfi, sempre da questi pentiti, il nome sempre di un altro onorevole, Gennaro Coronella. Subito hanno tutti detto, Bocchino ha detto Gaetano Vassallo è un farabutto, è il pentito che lo tiene in ballo, Landolfi dice è un cocainomane, insomma ci sarebbero altri nomi citati. Guardi, io credo che sulle valutazioni e dichiarazioni dei collaboratori bisogna avere grandissima attenzione. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono prova, sono un momento investigativo di inizio dell'attività e che richiedono riscontri molto approfonditi. Nel caso di specie i collaboratori riferiscono fra l'altro indicazioni che hanno a loro volta ricevuto da terzi, che noi tecnicamente chiamiamo derelato, quindi sono dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano e che allo Stato io credo non siano assolutamente idonee a fondare nessun tipo di accusa, neanche generica. Le chiedo, è possibile fare politica in quei territori senza venire a patti con la camorra? Guardi, non solo è possibile, è assolutamente indispensabile. Io credo che al di là della vicenda di merito, sulla quale, ripeto, non ho nessun elemento per potermi pronunciare, io credo che sia indispensabile che venga messo al centro dell'attenzione quello che è il legame fra criminalità e politica, non soltanto nell'interesse della classe politica, ma perché finché non si spezzerà questo legame, che in alcune situazioni si verifica, la criminalità organizzata ne trarrà indubbio vantaggio. Quindi è necessario, e su questo io per la mia esperienza concordo con quanto viene detto da molti esponenti del mondo politico, che è indispensabile un'attività preventiva che prescinda dalle attività della magistratura. È necessario che venga eliminato a monte ogni tipo di sospetto di collusioni fra mondo politico e mondo, diciamo, della criminalità. E in quella realtà, così come nella realtà della Campania, vi sono tante persone che svolgono attività politica in modo corretto e soprattutto che mettono l'antimafia in prima battuta. E poi mi consenta solo di dire una cosa, che non è vero che per esempio il Presidente della Regione non è stato coinvolto in indagini che riguardano il mondo del ciclo dei rifiuti, perché la Procura di Napoli ha chiesto il suo rinvio a giudizio e c'è un procedimento in corso. Questo è vero. Perché sia giusto, diciamo, dare una visione a 360 gradi, non perché io sia il difensore della Procura. No, ma l'ultima battuta è questa, dottor Cantone. L'accusa di parte della politica è, ecco, l'orologeria, insomma, chiacchierato, è vero, pentiti, da avevamo letto anche sull'Espresso che avevano tirato in ballo, avevano nominato Cosentino, appena si sta arrivando alla scadenza elettorale, forse c'è la sua candidatura alla regione, zac, ecco l'arrivo. È vero, i tempi della magistratura sono diversi, voglio dire, il sospetto viene. Sì, il sospetto viene sicuramente, però le voglio dire, ho sentito da uno dei suoi interlocutori che la richiesta di arresto sarebbe datata 28 luglio. Ora io mi chiedo, il 28 luglio probabilmente non erano state ancora neanche convocate le elezioni regionali e sicuramente non si parlava di una candidatura di Cosentino alla regione. Allora, se il GIP per ipotesi avesse deciso dopo la candidatura, si sarebbe detto che il GIP voleva interferire con la campagna elettorale. Se il GIP avesse deciso, per esempio, dopo l'elezione eventuale dell'onorevole Cosentino, si sarebbe detto che il GIP... E io mi rendo conto che c'è il rischio, e però perciò è indispensabile staccare il momento giudiziario dal momento politico. Diciamo... Se i tempi sono l'unica cosa oggettiva, mi pare che nel caso specifico i tempi non si prestino a questa interpretazione. Va bene, io mi devo fermare qui ringraziando Raffaele Cantone, così come Giorgio Stracquadagno del PDL e Luca Orlando dell'Italia dei Valori. Oggi non c'è stato spazio per gli ascoltatori, me ne scuso, li recupereremo in una prossima occasione. Votate su Radio24.it o Sole24ore.com, il caso Cosentino, si deve dimettere oppure no. Laura Marchesi, redazione, Peter Bescapè, regia, do la linea a Oscar Giannino. Oggi c'è ospite il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, tra pochissimo dunque. Noi ci sentiamo domani.